lo spettacolo si chiama Capitalismo Magico, e perché l'aggettivo magico, appunto, ti chiedo, Elena? Allora, magico lo scopriremo poi, appunto, come dicevi, sabato 3 ottobre al Teatro Biagi d'Antona di Castelmaggiore. Allora, magico fa presagire uno scintillio che forse così scintillante in realtà non è, appunto. E Capitalismo Magico è una passeggiata tra due amici, così l'hanno raccontata Nicola e Lodo, e lo spettacolo inizia proprio anche dicendo da quanto tempo ci conosciamo, no? Quindi c'è un tratto proprio anche autobiografico dei due in scena, ci siamo conosciuti alle medie, e da lì parte un viaggio come fossimo insieme a loro su un treno, su un interregionale che attraversa l'Italia, che attraversa la loro vita, che attraversa i 20 anni e che attraversa lo smalto di quella magia, di quel battito, di quel pulsare di vita che si scontra anche con un passaggio col capitalismo e con un passaggio forse anche all'età adulta. Quindi questa magia è così, è come una nube, una nuvola, a volte più appunto luminosa, a volte più cupa, più oscura, che attraversa la loro vita, l'Italia, il nostro paese, da dove veniamo e dove vorremmo andare, dentro e fuori questo capitalismo. Perché per un trentenne il motivo di trovare magia nel percorso di questo capitalismo? In realtà la magia è, questo è uno spettacolo molto bello, secondo me, e la magia ce l'ha, a volte anche la sbattono in faccia e a volte invece la tratteggiano in maniera anche più poetica, più... La magia è la ricerca del sogno, la magia è okay. E che poco ha a che fare col capitalismo, la magia è non arrendersi e cercare continuamente un'alternativa. E lo spettacolo parte proprio da un passaggio di lo spettacolo, non tanto lo spettacolo ma la presentazione dello spettacolo, da un passaggio di Margaret Thatcher che diceva: non c'è alternativa. There is no alternative. Esattamente, in realtà alla fine di questo viaggio dello spettacolo con Nicola Borghese e Lodo Guenzi ci diciamo: beh, forse c'è, e se anche non ci fosse, l'importante è cercarla, l'importante è continuare a cercarla. E allora li vediamo infaticabili, loro due, nella vita come nella scena, come nell'arte, a cercare un'autenticità, a cercare un modo migliore, ecco. Intanto Teatro Biagi d'Antona, Castelmaggiore. Esatto, Castelmaggiore. Abbiamo aggiunto alla replica delle 21 che citavi una replica straordinaria alle ore 18. E questo dà anche una bella conferma e risposta dal pubblico. Certo, anche un motivo in più di poter vedere, di poter assistere. Abbiamo parlato, a proposito di tutto ciò, di una fascia di età. Lo spettacolo però immagino che abbia una fruizione eterogenea. Assolutamente sì, lo spettacolo mi raffronta all'alba dei 30 anni, così è per Nicola e Lodo, e si rivolge ovviamente a tutti, entra molto, certo, il tema del rapporto anche tra generazioni, il rapporto a volte mancato, a volte ricercato, quindi anche certa rabbia che emerge con forza nello spettacolo ci chiama in causa assolutamente tutti. Rispetto a quello che è il tragitto anche di Kepler 452, più volte anche in alcune interviste loro hanno messo in evidenza come, diciamo, un pubblico più giovane è nel loro, mentre scrivono, mentre progettano, mentre compongono un'indagine, una narrazione per uno spettacolo, è in qualche modo il loro interlocutore privilegiato. Quindi quello sguardo dell'adolescente, quello sguardo che si affaccia sul mondo, è sicuramente un interlocutore privilegiato, diciamo, nei pensieri di Kepler. Lo spettacolo poi ovviamente è rivolto a tutti, è molto bello, e in scena appunto i due alternano parole che hanno composto insieme, appunto, in questo viaggio sul treno che attraversa il territorio misterioso, anche che è la giovinezza, che è il nostro stare. alternato a canzoni, quindi c'è un pianoforte e l'odo al pianoforte e dialogano anche tra parole e musica ed è un intreccio molto forte. Certo, ne abbiamo parlato anche in precedenza, sì. Tu sai come si sono conosciuti, come hanno iniziato questa collaborazione Ludovico Guenzi e Nicola Borghesi? Allora, la loro conoscenza è di lunga data, perché appunto si conoscono da quando erano piccoli, insomma dalle medie, e già erano spacciati, così dicono anche all'inizio dello spettacolo. E poi hanno fatto entrambi la stessa scuola di teatro, anche se in periodi un po' differenti, cioè la Nico Pepe di Udine, e hanno fondato insieme Kepler 452, la compagnia teatrale, quindi è un dialogo, insomma, chiaramente molto stretto. Insieme sono stati anche in scena con altri attori e attrici di Kepler, con Il Giardino dei Ciliegi, per esempio, sì, una delle produzioni molto belle che recentemente hanno realizzato. E quindi insomma, è un dialogo d'arte e di vita particolarmente stretto.